Quando giunse a casa era sera. Era intensamente depresso, questo giovane forte di 29 anni e dalle molte doti. Non si diceva adirato per aver commesso un grosso sbaglio, ma lo sbaglio operava in lui come una malattia cronica riconosciuta, mescolando le sue moleste ansietà con ogni prospettiva e indebolendo ogni pensiero. Mentre percorreva il corridoio che portava al salotto, udì il piano e del canto. Naturalmente c'era Ladislav. Erano trascorse alcune settimane da quando Will si era separato da Dorothea, eppure era ancora al vecchio posto a Middlemarch. Lydgate, in generale, non aveva nulla da ridire sulle visite di Ladislav, ma proprio ora si sentì irritato a non trovare il focolare libero. Quando aprì la porta, i due cantanti proseguivano verso la nota dominante, sollevando gli occhi e guardandolo, ma senza considerare la sua entrata a un'interruzione. Per un uomo irritato, nelle proprie pastoie come il povero Lydgate, non è un calmante vedere due persone che gorgheggiano verso di lui, mentre egli entra con la sensazione che la giornata dolorosa gli tiene in serbo altri dolori. Il suo volto, già più pallido del consueto, assunse un aspetto corrucciato, mentre gli attraversava la stanza e si gettava in una poltrona. I cantanti, sentendosi scusati dal fatto che avevano avuto solo 3 battute da cantare, ora si voltarono. «Com'è stato Lydgate?» chiese Will, facendosi avanti per dargli la mano. Lydgate gli prese la mano, ma non ritenne necessario parlare. «Hai cenato, Tertius? Ti aspettavo molto prima», disse Rosamond, che si era già accorta che il marito era di un umore terribile. Mentre parlava, si sedette nella sua poltrona consueta. «Ho cenato. Vorrei un po' di tè, per favore», disse Lydgate, brusco, ancora corrucciato e guardando insistentemente le proprie gambe, lunghe, distese davanti a sé. Will era troppo sveglio per aver bisogno di altro. «Me ne vado», disse, allungando la mano verso il cappello. «Il tè sta arrivando», disse Rosamond. «Vi prego, non andate via». «Sì, Lydgate è seccato», disse Will, che nei riguardi di Lydgate era più comprensivo di Rosamond e non si sentiva offeso dal suo comportamento, immaginando facilmente cause di irritazione esterne. «È ancora più necessario che voi rimaniate», disse Rosamond con aria giocosa e col suo accento più leggero. «Non me ne parlerà per tutta la sera». «Sì, Rosamond, te ne parlerò», disse Lydgate col suo forte tono da baritono. «Devo parlarti di alcune faccende assai importanti». Nessuna presentazione delle faccende avrebbe potuto essere meno simile a quella che Lydgate aveva avuto in progetto, ma il comportamento indifferente di Rosamond era stato troppo provocante. «Ecco, vedete», disse Will, «vado alla riunione sull'istituto di meccanica». «Arrivederci», e uscì rapidamente dalla stanza. Rosamond non guardò al marito, ma ben presto si alzò e prese posto davanti al vassoio del tè. Stava pensando che non l'aveva mai visto così sgradevole. Lydgate volse gli occhi scuri verso di lei e lo osservò mentre maneggiava il servizio da tè con le sue dita affusolate e guardava gli oggetti immediatamente davanti a sé con nessuna ruga sul suo volto turbato. Eppure con un'aria di protesta ineffabile contro tutte le persone dai modi sgradevoli. Per un attimo egli dimenticò la propria ferita in un'improvvisa riflessione su questa nuova forma di impassibilità femminile, che si rivelava in quella figura di Silfide che un tempo aveva interpretato come segno di una sensibilità pronta e intelligente. Riandando col pensiero a Lowry mentre guardava Rosamond, egli si disse in cuore: «Lei mi ucciderebbe perché l'annoio? E poi, così si comportano tutte le donne». Ma questa capacità di generalizzazione, che conferisce agli uomini una maggiore possibilità di errore rispetto agli animali muti, fu immediatamente frustrata in lui dal ricordo di impressioni stupende lasciatele dal comportamento di un'altra donna, dalle occhiate di Dorothea e dai toni appassionati per il marito quando Lydgate aveva cominciato ad assisterlo, dal suo grido appassionato perché le insegnasse cosa avrebbe confortato maggiormente quell'uomo per amore del quale sembrava che lei dovesse soffocare ogni impulso dentro di sé, tranne l'anelito alla fedeltà e alla compassione. Queste impressioni rinfocolate si succedettero rapidamente nella mente di Lydgate in un'aura sognante, mentre il tè si stava preparando. Aveva chiuso gli occhi all'ultimo istante della fantasticheria mentre udiva Dorothea dire: «Consigliatemi, pensate a cosa posso fare, per tutta la vita si è affaticato e ha guardato al futuro. A lui non importa nient'altro e a me non importa nient'altro». Quella voce di donna dall'anima intensa era restata dentro di lui come gli erano restate dentro le concezioni entusiasmanti di un genio morto e munito di scettro. Non esiste anche un genio dei nobili sentimenti che regna sugli spiriti umani e le loro deduzioni? I suoi toni erano una musica da cui si stava allontanando. Era davvero caduto in un suono momentaneo, quando Rosamond disse con la sua voce argentina e indifferente: «Ecco il tè, Tertius», posandolo sul tavolinetto accanto a lui e poi tornando al suo posto senza guardarlo. Lydgate fu troppo precipitoso nell'attribuirle un animo insensibile. A suo modo era piuttosto sensibile ed era soggetta ad impressioni durevoli. Ora la sua impressione era di offesa e di repulsione. Ma d'altronde Rosamond non era corrucciata e non aveva alzato la voce. Era assolutamente certa che nessuno avrebbe potuto giustamente rimproverarla. Forse Lydgate e lei non si erano mai sentiti così lontani l'uno dall'altra in precedenza, ma vi erano motivi validi perché egli non rimandasse la sua rivelazione, anche se non l'avesse già iniziata con quel secco annuncio. In effetti, un po' del suo irato desiderio di instillarle una maggiore sensibilità verso di lui, che le aveva suggerito di parlare troppo presto, si mescolava ancora al suo dolore per la prospettiva del dolore di lei. Ma attese finché il vassoio non fu portato via, le candele non furono accese e non si potesse contare sulla tranquillità serale. L'intervallo aveva lasciato tempo alla tenerezza respinta di tornare nel vecchio alveo. Egli parlò teneramente. «Cara Rosy, posa il tuo lavoro e vieni a sederti accanto a me», disse con gentilezza, spingendo via il tavolinetto e allungando un braccio per tirare vicino alla propria un'altra poltrona. Rosamond obbedì. Come si avvicinò a lui nel suo drappeggio di mussolina trasparente dalla tinta tenue, la sua figura snella e pur rotonda non era mai apparsa più graziosa. Mentre si sedeva presso di lui e posava una mano sulla sua poltrona, finalmente guardandolo e incontrando i suoi occhi, il collo delicato e la guancia e le labbra dal contorno puro non avevano mai avuto in misura maggiore quella bellezza incontaminata che ci raggiunge in primavera nell'infanzia e in ogni dolce freschezza. Ora colpì Lydgate e i primi momenti del suo amore per lei si mescolarono con tutti gli altri ricordi suscitati in questo momento di profonda preoccupazione. Posò dolcemente la sua grande mano su quella di lei dicendo: «Cara», con la prolungata espressione che l'affetto conferisce alla parola, anche Rosamond era ancora sotto l'influsso di quello stesso passato e il marito era ancora in parte Lydgate, la cui ammirazione aveva suscitato piacere. Gli scostò con mano leggera i capelli dalla fronte, poi gli posò l'altra mano sulla sua e si rese conto di perdonarlo. «Sono obbligato a dirti ciò che ti farà male, Rosy, ma ci sono cose a cui marito e moglie devono pensare assieme. Credo che tu sia già al corrente che sono a corto di denaro». Lydgate tacque, ma Rosamond voltò il collo e guardò un vaso sulla mensola del caminetto. «Non sono riuscito a pagare tutte le cose che abbiamo dovuto procurarci prima di sposarci, ed allora ci sono state delle spese che sono stato obbligato ad affrontare. La conseguenza è che c'è un grosso debito a Bressing, 380 sterline, che mi porto dietro da molto tempo. E in effetti si ingrossa ogni giorno dal momento che la gente non mi paga con maggiore tempestività solo perché gli altri vogliono denaro da me. Mi sono fatto scrupolo di tenertelo nascosto mentre non stavi bene, ma adesso dobbiamo pensarci assieme e tu devi aiutarmi». «Io cosa posso fare, Tertius?» chiese Rosamond, volgendo di nuovo lo sguardo su di lui. «Quel discorsetto di quattro parole, come tanti altri in tutte le lingue, può con il variare delle inflessioni vocali esprimere ogni stato mentale, dalla stupidità inerme all'esauriente comprensione polemica, dalla più completa e devota fratellanza al distacco più indifferente». L'esile enunciato di Rosamond mise nelle parole: «Io cosa posso fare?» tutta l'indifferenza che potevano contenere. Caddero come un gelo mortale sulla ridestata tenerezza di Lydgate. Egli non la salì indignato, provò un senso di vuoto troppo triste al cuore e quando riprese a parlare fu più col tono di un uomo che si impone di compiere un dovere. «È necessario che tu lo sappia, perché devo dare una garanzia per un certo tempo e deve venire un uomo a fare l'inventario dei mobili». Rosamond arrossì intensamente. «Non hai chiesto soldi al babbo?» disse, appena fu in grado di parlare. «No». «Allora devo chiederglieli io», disse, liberando le proprie mani da quelle di Lydgate e alzandosi per mettersi in piedi a 2 metri da lui. «No, Rosie», disse Lydgate con decisione, «è troppo tardi per farlo. L'inventario comincerà domani. Ricorda che si tratta di una semplice garanzia. Non ci sarà nessuna differenza. È una cosa temporanea. Insisto perché tuo padre non lo sappia, a meno che non decida di dirglielo io stesso», aggiunse Lydgate con enfasi più perentoria. Questo fu certo scortese, ma Rosamond lo aveva nuovamente indotto a non aspettarsi nulla di buono da ciò che lei avrebbe fatto con una tranquilla, ostinata disobbedienza. A lei la scortesia sembrò imperdonabile. Non era portata a piangere facilmente, lo detestava, ma ora il mento e le labbra cominciarono a tremarle e le lacrime sgorgarono. Forse per Lydgate non era possibile, sotto la duplice tensione delle difficoltà materiali esterne e della propria orgogliosa resistenza di fronte a conseguenze umilianti, immaginare pienamente cosa significasse questa croce improvvisa per una giovane creatura che non aveva conosciuto altro che condiscendenza e che aveva solo sognato nuova condiscendenza più vicina al suo gusto. Ma egli desiderava risparmiarla più che poteva, e le lacrime di lei lo colpirono profondamente. Non riuscì a riprendere subito a parlare, ma Rosamond non continuò a singhiozzare. Cercò di vincere la propria agitazione e si asciugò le lacrime, continuando a guardare la mensola del caminetto davanti a sé. «Cerca di non affliggerti, cara», disse Lydgate alzando lo sguardo verso di lei. Il fatto che lei avesse preferito allontanarsi da lui in questo difficile momento rendeva più complicato dire ogni cosa, ma egli doveva assolutamente proseguire. «Dobbiamo prepararci a fare ciò che è necessario. Sono io che ho sbagliato. Avrei dovuto capire che non mi potevo permettere di condurre questo tipo di vita. Ma molte cose mi sono andate storte nella mia attività e veramente, proprio adesso, è scesa a un livello basso. Può darsi che mi rifaccia, ma nel frattempo dobbiamo porci un freno. Dobbiamo cambiare il nostro tenore di vita. Supereremo questa crisi. Quando avrò dato questa garanzia, avrò tempo di guardarmi attorno e tu sei così brava che se ti imponi di farcela, sarai tu a insegnarmi la prudenza. Sono stato un mascalzone sconsiderato nel far quadrare i conti, ma su via, cara, siediti e perdonami». Lydgate piegava il collo sotto il giogo come un essere fornito di artigli, ma anche di ragione, la quale spesso ci induce all'umiltà. Quando ebbe detto le ultime parole in tono implorante, Rosamond tornò verso la poltrona al suo fianco. La sua autoaccusa le faceva in certa misura sperare che egli ascoltasse la sua opinione, disse: «Perché non puoi rimandare di far fare l'inventario? Domani puoi mandare via gli uomini quando vengono». «Non li manderò via», disse Lydgate, tornando di nuovo al tono perentorio. Serviva qualcosa a spiegare il perché. Se andassimo via da Middlemarch, naturalmente venderemmo delle cose e questo servirebbe ugualmente a sistemare le cose. Ma noi non andremo via da Middlemarch. Sono sicura, Tertius, che sarebbe molto meglio farlo. Perché non possiamo andare a Londra o vicino a Durham, dove la tua famiglia è conosciuta? Senza soldi non possiamo andare da nessuna parte, Rosamond. Ai tuoi parenti non andrebbe che tu restassi senza soldi e senza dubbio si potrebbe far capire questo a quegli odiosi commercianti e farli aspettare se tu presentassi loro la cosa nel modo dovuto. Questo è un discorso futile, Rosamond, disse Lydgate adirato. Devi imparare ad affidarti al mio giudizio per le questioni che non capisci. Ho preso gli accordi necessari e saranno rispettati. Quanto ai parenti, da loro non mi aspetto assolutamente niente, non chiederò loro niente. Rosamond rimase perfettamente immobile. Il pensiero che le passò per la mente era che se avesse saputo come Lydgate si sarebbe comportato, non l'avrebbe mai sposato. «Adesso non abbiamo tempo da perdere in parole inutili, cara», disse Lydgate cercando nuovamente di essere gentile. «Ci sono alcuni particolari che voglio esaminare assieme a te. Dover dire che riprenderai indietro buona parte dell'argenteria e qualsiasi gioiello vogliamo. Veramente si dimostra un gran brav'uomo». «Dovremmo fare senza cucchiaio e forchetta, allora», disse Rosamond, le cui stesse labbra sembravano assottigliarsi con l'assottigliarsi della voce. Era decisa a non opporre ulteriore resistenza e a non dare ulteriori suggerimenti. Oh no, cara, disse Lydgate. Ma guarda qui, egli continuò estraendo una carta dalla tasca, aprendola. Ecco il conto di Dover. Vedi, ho segnato un certo numero di articoli che se noi restituissimo ridurrebbero l'ammontare del debito di 30 sterline e più. Non ho segnato nessuno dei gioielli. In realtà questa questione dei gioielli era stato un boccone assai amaro anche per lui, ma aveva superato il sentimento con un severo ragionamento. Egli non poteva proporre a Rosamond di restituire uno qualsiasi dei suoi regali, ma si era detto che era obbligato a sottoporle l'offerta di Dover e il suggerimento del cuore di lei avrebbe reso facile la cosa. È inutile che io lo guardi, Tertius, disse Rosamond con aria calma. Restituirai quello che ti pare. Non volle rivolgere gli occhi alla carta e Lydgate, arrossendo fino alla radice dei capelli, la tirò indietro e se la lasciò cadere sul ginocchio. Frattanto Rosamond uscì silenziosamente dalla stanza, lasciando Lydgate inerme e stupito. Non sarebbe tornata? Sembrava che non si fosse identificata con lui, più che se fossero stati due esseri di specie diverse e dagli interessi contrastanti. Egli agitò il capo e si infilò le mani fino in fondo alle tasche in preda a una specie di furia. C'era ancora la scienza, vi erano ancora buoni fini per cui lavorare, doveva ancora fare uno sforzo. Tanto più forte in quanto altre soddisfazioni lo abbandonavano. Ma la porta si riaprì e Rosamond tornò. Reggeva la scatola di pelle che conteneva le ametiste e un cestello ornamentale che conteneva alcuni astucci e, posateli sulla sedia dove era stata seduta, disse con un'aria perfettamente educata: «Questi sono tutti i gioielli che mi hai regalato. Puoi restituire quello che vuoi e anche quello che vuoi dell'argenteria. Naturalmente non ti aspetterai che domani resti a casa. Andrò a casa del babbo». Per molte donne quello che Lydgate le rivolse sarebbe stato più terribile di uno sguardo furibondo. In esso c'era una disperata accettazione della distanza che lei frapponeva fra loro due. «E quando tornerai?» egli chiese con un accenno pieno di amarezza. «Oh, la sera. Naturalmente non farò cenno della cosa alla mamma». Rosamond era convinta che nessuna donna avrebbe potuto comportarsi in modo più irreprensibile e andò a sedersi al tavolo da lavoro. Lydgate rimase a meditare per un paio di minuti e il risultato fu che disse con un po' dell'antico sentimento nel tono: «Ora che siamo stati uniti, Rosie, non dovresti abbandonarmi a me stesso, alla prima difficoltà che arriva». «Certamente no», disse Rosamond. «Farò tutto quello che è opportuno che faccia. Non è giusto che la cosa venga lasciata alla servitù o che debba parlarne ad essa, e sarà obbligata a uscire. Non so a che ora del mattino. Capisco che tu voglia ritrarti da queste faccende di soldi, ma, mia cara Rosamond, come questione di orgoglio che io sento nella stessa misura in cui tu puoi sentire, è certo meglio che sbrighiamo la cosa da soli e fare in modo che la servitù ne veda il meno possibile. E dato che tu sei mia moglie, non c'è nulla che ti impedisca di condividere la mia vergogna se si tratta di vergogna». Rosamond non rispose immediatamente, ma alla fine disse: «Molto bene, resterò a casa. Non toccherò questi gioielli, Rosie, riportali via, ma stilerò un elenco dell'argenteria che possiamo rendere e che può essere imballata e mandata via subito». «Questo la servitù lo verrà a sapere», disse Rosamond con una lievissima punta di sarcasmo. «Va bene, dobbiamo affrontare alcune cose sgradevoli perché sono necessarie. Dove sarà l'inchiostro?» chiese Lydgate alzandosi e gettando il conto sul tavolo più grande dove intendeva mettersi a scrivere. Rosamond allungò la mano verso il calamaio e dopo averlo posato sul tavolo stava per andarsene, quando Lydgate, che le stava appresso, l'abbracciò e la tirò verso di sé dicendo: «Andiamo, cara, cerchiamo di affrontare le cose nel miglior modo possibile. Sarà solo per un po', spero, che dovremo fare i taccagni ed essere meticolosi. Baciami». Ci voleva un bel po' per soffocare la sua naturale cordialità. Ed è parte della virilità di un marito avvertire intensamente il fatto che una ragazza inesperta sia venuta a trovare nei guai sposandolo. Lei ricevette il suo bacio e glielo restituì debolmente, e in tal modo una parvenza di accordo per il momento fu raggiunta. Ma Lydgate Non poté fare a meno di prevedere con terrore le future inevitabili discussioni sulle spese e la necessità di un completo mutamento del loro tenore di vita. Capitolo 59. Le notizie spesso si diffondono alla stessa maniera sbadata ed efficace del polline che le api trasportano via, senza avere la minima idea di quanto ne siano impiastrecciate quando ronzano alla ricerca del loro particolare nettare. Questo fine paragone si riferisce a Fred Vincey, che quella sera, alla casa del pastore di Lowick, ebbe modo di udire una vivace discussione fra le donne sulla notizia che il loro vecchio servitore aveva raccolto da Tantrippa riguardante lo strano accenno a Mr. Ladislav fatto da Mr. Casaubon di un codicillo al testamento, aggiunto poco tempo prima di morire. Miss Winifred rimase sbalordita nello scoprire che il fratello era già a conoscenza del fatto e osservò che Camden era la persona più stupefacente quando si trattava di conoscere delle cose e non dirle, al che Mary Garth disse che il codicillo forse si era andato a mescolare con le abitudini dei ragni, a cui Miss Winifred non voleva mai interessarsi. Mrs. Fairbrother osservò che la notizia aveva qualcosa a che vedere col fatto che avessero visto Mr. Ladislav solo una volta a Lowick, e Miss Noble emise un gran numero di piccoli miagolii compassionevoli. Fred conosceva poco e si curava ancor meno di Ladislav e dei Casaubon, e il suo pensiero non tornò a quella discussione finché un giorno, nel passare da casa di Rosamond su preghiera della madre per consegnarle un messaggio strada facendo, per caso vide Ladislav che si congedava. Fred e Rosamond avevano poco da dirsi ora che il matrimonio aveva eliminato la possibilità che si scontrasse con l'ostilità dei fratelli, e soprattutto ora che egli aveva compiuto il passo, a parere di Rosamond stupido e addirittura riprovevole, di non farsi prete per dedicarsi a un lavoro come quello di Mr. Garth. Perciò Fred parlò soprattutto di notizie che considerava irrilevanti e a proposito di quel giovane Ladislav accennò a quanto aveva sentito dire nella casa del pastore di Lowick.